seduto sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli e gli aguzzini tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli mentre arriva Claudio Lolli che mi guarda e dice beh, sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, tra poveri e scontato che di moda va bennato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo, in un frigo tutto vuoto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. C'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i Mitra e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli Paoligino, Bruno Nauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo e io scrivo una canzone che ho trovato dentro frigo, dentro frigo tutto vuoto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino.